Il terzo anello, ad alta voce. La montagna incantata di Thomas Mann. 7 anni rimase Castorp fra quelli lassù. Lo lasciavano in pace, un po' come lo scolaro che gode il privilegio singolarmente allegro di non essere più interrogato, di non avere più nulla da fare, perché la sua bocciatura è ormai decisa e nessuno lo prende più in considerazione. Una forma orgiastica di libertà, aggiungiamo noi, chiedendoci se la libertà può mai essere di forma e natura diverse da questa. In ogni caso, là c'era uno che l'autorità non aveva più bisogno di tener d'occhio e curare, perché era ormai certa che nel suo petto non sarebbero più maturate arbitrarie e caparbie risoluzioni. Una persona sicura e definitiva, che da un pezzo non sapeva dove mai andare, e non era neanche in grado di concepire il pensiero del suo ritorno al piano. Si ebbero decessi gravi, decessi di pianura, che toccavano più da vicino il nostro protagonista, o almeno l'avrebbero toccato da vicino in altri tempi. Alludiamo alla dipartita, avvenuta poco prima, del vecchio console Tinapel, il prozio di Hans Castorp e suo tutore di sbiadita memoria. Quel decesso, il cui peso sentimentale non sarebbe stato mai cospicuo, e col passare di avventurosi annetti nell'indifferenza si era ridotto quasi a zero, equivalse però allo strappo di un legame superstite, di un'ultima relazione col mondo di laggiù. Conferì la rifinitura a quella che Castorp giustamente chiamava libertà. Infatti, negli ultimi tempi dei quali stiamo parlando, ogni contatto fra lui e la pianura era cessato. Egli non vi mandava più lettere e non ne riceveva. Non si faceva più mandare da laggiù i Maria Mancini. Non portava più l'orologio addosso. Era fermo. Un giorno gli era caduto dal comodino ed egli si era astenuto dal fargli rimisurare il tempo col moto rotante. Per le stesse ragioni che da lunga pezza lo avevano indotto a rinunciare ai calendari, sia a quelli col foglietto quotidiano da strappare, sia a quelli che insegnano preventivamente la sequenza dei giorni feriali e festivi. Per ragioni dunque di libertà, in onore della passeggiata sulla spiaggia, del costante in perpetuo, della magia ermetica alla quale il rapito si era mostrato accessibile e che aveva costituito la fondamentale avventura della sua anima, il piano sul quale si erano svolte tutte le alchimistiche avventure di questa sostanza semplice. Così stava coricato. E così, in piena estate, l'epoca del suo arrivo si compì, senza che egli ci pensasse un'altra volta l'anno, il 7. In quella rimbombò. Vergogna e timore ci trattengono però dal menar vanto in questo racconto di ciò che rimbombò e accadde. Per carità, niente vanterie, niente spacconate. Moderiamo la voce nell'annunciare che, dunque, rimbombò il colpo di tuono che tutti sappiamo, l'assordante scoppio dello sciagurato miscuglio di stupidità e irritazione accumulato da molto tempo, un tuono storico, per dirla con attenuato rispetto, il quale scrollò le fondamenta della terra. Per noi, invece, il tuono che spacca la montagna magica e mette bruscamente alla porta il dormiglione. Sbalordito, si trova seduto sull'erba e si stropiccia gli occhi come quello che, nonostante parecchi ammonimenti, ha tralasciato di leggere i giornali. Il suo amico e mentore mediterraneo aveva cercato sempre di porvi qualche riparo e si era preso a cuore il compito di istruire il pupillo della sua educazione intorno agli avvenimenti di laggiù, almeno a grandi linee, ma aveva trovato poco ascolto nell'alunno, il quale, pur avendo intravisto qua e là, sul suo piano di governo, l'ombra spirituale delle cose, aveva trascurato le cose stesse e, precisamente per l'altezzosa inclinazione, a prendere le ombre per cose, ma a vedere in queste soltanto ombre. Nei giorni della più opprimente attesa, quando un vero tormento tese i nervi dell'Europa, Castorp non vide Settembrini. Le gravi notizie salivano direttamente dal basso al suo balcone, guizzavano per la casa, empivano del loro soffocante odore di zolfo la sala da pranzo e persino le camere dei gravi e moribondi. Erano i secondi nei quali il dormiglione nell'erba, senza capire in che mondo fosse, si rizzò adagio adagio per mettersi a sedere e stropicciarsi gli occhi. Qui però vogliamo disegnare tutta la scena per giudicare rettamente le sue emozioni. Ritirò le ginocchia, si alzò in piedi, guardò intorno a sé. Si vide disincantato, redento, liberato, non di sua iniziativa, come dovette riconoscere con vergogna, ma messo alla porta da potenze elementari esterne, per le quali la sua liberazione era un fatto secondario in mezzo a tanti altri. Ma anche se il suo piccolo destino scompariva di fronte a quello generale, non vi si manifestava un tantino di bontà, di giustizia personale e quindi divina? Se la vita riaccoglieva ancora una volta il suo pupillo peccatore, non a buon mercato, ma proprio così, in quel modo serio e severo, come tribolazione, la quale per lui peccatore poteva significare non già la vita, ma in questo caso tre salve in suo onore, facesse pure. E così cadde in ginocchio, le mani e il viso alzati a un cielo che era buio e sulfureo, ma non più il soffitto speleo della montagna del peccato. Settembrini lo trovò in quella posizione, detto si intende con ardita metafora, poiché in realtà lo sappiamo, il carattere ritroso del nostro eroe escludeva siffatti atteggiamenti teatrali. Nella brusca realtà il mentore lo trovò che stava facendo le valigie, poiché dal momento del risveglio Castorp si era buttato nel vorticoso subbuglio delle partenze arbitrarie suscitate nella valle dal tuono dirompente. La patria somigliava a un formicaio preso dal panico. Da 5.000 piedi di altezza il popoluccio degli ospiti di lassù scese a precipizio nella pianura della tribolazione, occupando i predellini del trenino preso d'assalto, all'occorrenza anche senza i bagagli accatastati sui marciapiedi della stazione brulicante, alla cui altezza pareva si sollevasse lingueggiando dal basso un'afa che sapeva di bruciaticcio, e Castorp precipitò con loro. Nel trambusto Lodovico lo abbracciò letteralmente, lo strinse fra le braccia e lo baciò come un meridionale, o anche come un russo, sulle due guance, la qualcosa, nonostante la commozione, mise alquanto in soggezione il nostro non autorizzato partente. Ma per poco non perdeva la bussola, allorché all'ultimo momento Settembrini lo chiamò per nome, cioè Gianni, e abbandonando la forma di cortesia consueta in Occidente, gli diede del tu. E così, in giù, disse, in giù finalmente. Addio, Gianni mio. Diversamente mi auguravo di vederti partire. Ma sia pure. Gli dèi hanno stabilito così, e non diversamente. Speravo di rilasciarti perché tu andassi a lavorare. Ora invece combatterai nelle file dei tuoi. Dio mio, a te era destinato, non al nostro tenente. Come scherza la vita. Combatti da valoroso, là dove sono i tuoi legami di sangue. Oggi nessuno può fare più di così. Ma perdona a me se impegno il resto delle mie forze per trascinare nella lotta anche il mio paese, dalla parte che gli indicano lo spirito e il sacro egoismo. Addio. Castorp insinuò la testa fra 10 altre che empivano il vano del finestrino. Al di sopra di esse salutò con la mano. Anche Settembrini fece un cenno con la destra, mentre col polpastrello dell'anulare sinistro si toccava un occhio. Dove siamo? Che è questo? Dove ci ha sbalestrati il sogno? Penombra, pioggia e fango, rossi bagliori d'incendio nel cielo bigio, che rimbomba senza posa di tuoni e boati, empiendo l'aria umida lacerata da sibilanti ronzii, dall'arrivo di furiosi latrati da cane infernale, che terminano il loro percorso fra schegge, spruzzi, schianti e fiammate, da gemiti e gridi, da squilli di una tromba che sta per scoppiare, da rulli di un tamburo che spinge alla fretta. È la pianura, è la guerra. Devono passare i 3.000 ragazzi febbricitanti, sono di rinforzo con le loro baionette, devono decidere le sorti dell'assalto alle trincee davanti e dietro la linea dei colli e ai villaggi in fiamme, appoggiare l'avanzata fino a un determinato punto indicato nell'ordine che il loro comandante tiene in tasca. Sono 3.000 affinché rimangano in 2.000 quando saranno presso i colli e i villaggi. Questo è il significato del loro numero. Ed ecco il nostro conoscente, ecco Hans Castorp. Già da lontano lo abbiamo riconosciuto dalla barbetta che si è lasciato crescere alla tavola dei russi incolti. È tutto bagnato e arde, come tutti. Corre coi piedi appesantiti dalle zolle, bilanciando il fucile nella mano abbassata. Ecco, calpesta la mano di un camerata caduto, con lo stivale chiodato preme quella mano, dentro al terreno pantanoso, coperto di rami scheggiati. Cade. No, si è buttato ventre a terra, perché un cane infernale arriva ululando, una grossa granata dirompente, un ributtante pan di zucchero dell'abisso. Giace, con la faccia nel fango freddo, le gambe divaricate, i piedi distorti, coi tacchi all'inciù. Il prodotto di una scienza abbrutita, carico del peggio, affonda nel terreno a 30 passi di fianco a lui, come il diavolo in persona, ed esplode laggiù con orrenda strapotenza, sollevando nell'aria una fontana alta come una casa, di terriccio, fuoco, ferro, piombo e brani di carne umana. Là, infatti, stavano coricati due amici. Si erano buttati giù insieme nel pericolo. Ora sono mischiati e scomparsi. Vergogna della nostra sicurezza nell'ombra. Via, via, via. Questo non lo vogliamo narrare. È stato colpito il nostro conoscente. Un istante ha creduto di esserlo. Una grossa zolla l'ha preso allo stinco. Gli ha fatto male, sì, ma è roba da ridere. Egli si rialza, prosegue barcollando zoppiconi, coi piedi pesanti di terra. E così, nel trambusto, nella pioggia, nel crepuscolo, lo perdiamo di vista. Addio, Hans Castorp, schietto pupillo della vita. La tua storia è terminata. L'abbiamo narrata sino alla fine. Non fu né divertente né noiosa. Fu una storia ermetica. L'abbiamo raccontata per se stessa, non per amor tuo, poiché tu eri semplice. Ma in fin dei conti era la storia tua, siccome è toccata a te. Devi aver avuto una certa accortezza, e noi non neghiamo la simpatia pedagogica che ci prese nel narrarla. E potrebbe anche indurci a passare delicatamente un polpastrello sull'angolo di un occhio, al pensiero che non ti vedremo e non ti ascolteremo in avvenire. Addio, sia che tu sopravviva o muoia. Le tue probabili sorti sono brutte. La mala danza nella quale sei trascinato durerà ancora qualche anno. E noi non ci sentiamo di scommettere forte che ne uscirai salvo. Francamente, non ci preoccupiamo granché se la questione rimane aperta. Avventure della carne e dello spirito che hanno potenziato la tua semplicità ti hanno permesso di superare nello spirito ciò che difficilmente potrai sopravvivere nella carne. Ci sono stati momenti in cui nei sogni che governavi sorse per te dalla morte e dalla lussuria del corpo, un sogno d'amore. Chissà se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutto intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l'amore. Sono Enzo Muzzi e a chiusura di questi 7 anni che avete vissuto nella narrazione che ve ne ha fatto la voce di Piero Baldini, dopo questi 7 anni vissuti nell'atmosfera rarefatta di un mondo circoscritto a pochi abitanti, regolato quel mondo da ferre leggi e aperto però alle ipotesi più arrischiate della parola e alla fantasia impudica degli sguardi, palcoscenico febbricitante di passioni, egoismi, ansie, rassegnazioni, attese, furia e cupa sonnolenza, dopo 7 anni e mezzo lassù, il ritorno di Giovanni Castorp nella pianura non poteva essere più mortificante o più consolatorio, dipende dal punto di vista, essendogli toccata come approdo la barbarie della guerra. Delle tante teorie filosofiche di cui si era nutrita la sua mente, mente che era oggetto della cupidigia dei due pedagoghi, l'umanista Settembrini e il mistico Naphta, intenti entrambi a impossessarsi di un'anima ancora intatta, nulla sarà rimasto al termine della battaglia nella quale anche lui, Giovanni Castorp, voleva essere coinvolto insieme a migliaia di anonimi eroi. Una morale, dunque, non è possibile trarla da questa come da ogni altra storia che si faccia rispettare per autenticità di ispirazione e meditata cura, o diciamo così, sigla stilistica. Una cosa però è certa. Se è caduto anche lui sul terreno, è ancora capace però di un lampo di coscienza, dal suo noviziato al pupillo della vita, come Settembrini chiamava affettuosamente Hans Castorp, sarà affiorata nel solco di una scia luminosa la sola figura che senza parlare gli aveva aperto il cuore al sogno, alla speranza, alla schiavitù d'amore. Madame Chauchat, dal passo scivolante e dagli occhi di Kirghisa, che, entrando in sala da pranzo, sbatteva rumorosamente la porta. E il resto? Ma, come diceva Amleto, il resto è silenzio. Ma qui mi si è consentito un postscritto mentale. Devo confessare che la mia ipotesi a proposito di Madame Chauchat come ultima, luminosa, striatura di vita nella nebbia che precede la morte del povero Hans Castorp è frutto di un processo di identificazione tra me e il protagonista della Montagna Incantata. Naturalmente non parlo di me oggi, ultra settantenne, ma di me allora, quando a 20 anni lessi il romanzo di Thomas Mann e mi innamorai follemente di quella donna che al mistero della bellezza univa l'esotismo di terre lontane. Sì, come se Marlene Dietrich, per esempio, alla malizia del suo incantesimo nordico avesse potuto unire l'enigma degli occhi di Kirghisa, simbolicamente spalancati sull'abisso che divide due civiltà. E se nell'approccio con le belle fanciulle della mia città la timidezza mi faceva velo, non me ne lamentavo troppo, perché tanto c'era lei, Claudia Chauchat, inattingibile per altre ragioni, ma che nessuno poteva impedirmi di venerare come la dea dell'amore, collocandola al posto di quella di Milo, visto che di mitologia greca e di tutta la classicità ne ho sempre masticata poca. Piero Baldini ha letto La montagna incantata di Thomas Mann, traduzione di Ervino Pocar, edizioni Corbaccio, riduzione e regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.